sono delle immagini dentro questo messaggio biblico di oggi, immagini che colpiscono appunto perché riassumono il messaggio biblico di questa terza domenica di Avvento. E mi colpiscono quelle frasi che sembrano scolpite dentro nella pietra. Irrobustite le mani piegate, rendete salde le ginocchia vacillanti. Non è una pacca sulla spalla, un incoraggiamento. Ne abbiamo bisogno? Si può aggiungere anche l'altra immagine. Ci sarà una strada appianata e la chiameremo Via Santa. Poi quando sentiamo Via Santa sembra qualcosa di sacralizzato, di no. È santa perché tutti, anche gli zoppi, possono seguirla. Una strada per tutti. È lecito chiederci, ma che senso può avere un messaggio di incoraggiamento? Se leggo attentamente la vita quotidiana, dei piccoli o dei grandi avvenimenti, saremmo portati un po' a fare i piagnistei o i pessimisti? Non so quanto, però mi è venuta così. Secondo una riflessione matura e di fede, si può dire questo messaggio ci permette di fare una distinzione dentro il messaggio biblico. Una distinzione caratterizzata da due termini che ci aiutano, non sono la verità. È un conto che parliamo di futuro, è un conto che parliamo di avvento. Futuro è il domani che ipotizziamo lecitamente, coraggiosamente, rispondendo ai nostri desideri anche. E guardiamo al domani con occhi sinceri, con coscienza vera. E guardiamo appunto le vicissitudini di oggi. Se guardo al futuro come sbocco di come viviamo il presente, certamente vedo un po' strabicamente. Vedo un consolidamento del dato di fatto, nelle relazioni, nella politica, non parliamo dell'economia, nella religione, nelle comunità religiose. Se invece mi fermo a guardare l'altro termine, avvento, che non è il prolungamento del presente, ma è il sopraggiungere di una novità. Cioè, quelle speranze che oggi magari sono intorbidite, nascoste, messe da parte, qualche volta anche un po' avvilite, ironizzate. Questo nel linguaggio biblico è chiamato il giorno di Dio. L'avvento è il giorno di Dio. Riflettevo e dicevo, ma qual è la verità di questo messaggio? Che non posso dimostrare, è inutile che ci giri attorno a fare il giornalista, a fare il sociologo, a fare il filosofo e così via. È intuita questa verità solo dalla coscienza libera della fede. Faccio degli esempi. Una persona, una famiglia, un gruppo, un'organizzazione che si chiude a guardare se stessa, non vede nulla, non scopre novità, perché la preoccupazione sarà garantire lo spicchio di vita che gratifica. Legittimo, però è uno spicchio di vita e soprattutto su misura di se stessi. Quindi non scopre il germe che si può nascondere sotto l'apparente sterilità di ciò che ho davanti. Mi viene da dire che se non guardiamo quello che avviene attorno, a partire magari dai figli, dai nipoti giovani, che hanno tutto un linguaggio, che hanno tutto un altro modo di pensare, oggi siamo un po' sbiallati, Però ci sono questi germi sotto l'apparente sterilità di ciò che ho davanti. Mi ha fatto bene in questi giorni leggendo un reportage, un articolo di giornale con un commento anche di Grossman. Come negli ospedali di Israele si curano i siriani, i nemici che si trovano insieme nel momento della sofferenza, del dolore, della disperazione, con tutto quello che comporta poi, dici vabbè tu mi attacchi una gamba, me la cucisci insieme, però tu sei palestinese, cioè tu sei un siriano, tu sei un israeliano, però andate e dite che gli zoppi camminano. Cavoli, ci rendiamo conto che cosa vuol dire là dove si incrosta la pace. Vado giù un pochino più banaluccio. Che cosa vedono coloro che stanno nei palazzi? Non è per polemizzare. Loro hanno il loro modo di guardare la realtà. E non è questione di disonestà o di onestà, che è un altro capitolo. È che di fatto tendono a mantenere l'esistente, e siamo un pochino tutti portati a mantenere l'esistente. Poi i nodi vengono al pettine e si ripetono le stesse cose. Forse è lecito dire che chi abita nel palazzo non vede la vita, lo snodarsi della vita. Si vede troppo poco e con certa mentalità. Se penso alle nuove cattedrali, che sono quelle delle banche, non sono le cattedrali, mi auguro almeno che non se ne costruiscano, almeno da noi. Padre Pio, insomma, fanno i miracoli, ma non so se sono uguali a quelli di Gesù Cristo. Non sono invece il frutto di... Adesso mi disperdo e chiudo. Le distanze tra i palazzi, che si chiamano questo o quest'altro, compreso il Vaticano, compreso lo IOR, tranquillamente possiamo dircelo. Ma anche il nostro star bene nei confronti del malato mentale, tra l'adulto e l'adolescente. Che distanza. Sì, magari il nostro star bene non sarà il palazzo, però la distanza col malato mentale è enorme e che fatica. Soprattutto per chi ce l'ha sulle spalle. Scusate, mi sto disperdendo. Allora faccio un altro esempio per chiudere. Le canne sbattute dal vento. E siamo un po' ovunque. Io qualche volta sono stato proprio sbattuto, la canna sbattuta, no? E alle volte le cose andavano bene, allora cambia il vento e le canne si muovono in senso opposto. Allora le speranze di ieri si dicono infondate? Ci si ritira a godere il privato? Dentro in quella rassegnazione ci si chiude dentro perché il vento oggi magari soffia verso la paura, il rancore, l'indifferenza, la paura di guardare la realtà. Tutto questo mortifica la speranza. Chiudo. Sei tu colui che deve venire o dobbiamo attenderne un altro? La domanda dice che la fede è attraversata dal dubbio e che il dubbio può affinare la fede, ridurre la distanza tra l'immagine del Signore che magari anche come credenti coltiviamo, è il Signore stesso nel suo rivelarsi. Pensiamo. Il Battista, per il Battista la fede in Gesù Messia cessa di essere una verità evidente. Perché prima, no? Giovanni Battista era quello che aveva segnato al dito: viene uno dopo di me, più grande di me, non sono degno di... Poi a un certo punto si ferma e questa verità evidente non c'è. La certezza predicata a gran voce diviene una domanda sussurrata. Anche la fede, parlo della mia fede, ha una storia. E questa storia non è solo luce. Alle volte c'è buio. Alle volte la fede conosce le zone grigie, diciamo, della vita. È significativo però il fatto che il Battista si rivolge a Gesù e esponga la sua domanda. Provate a pensare, se il mattino quando ci svegliamo dico, ma sei tu? Ma sei tu davvero quello che mi dà l'onda a vivere? La domanda di fede, aiutami a credere, non spegne la fiducia, soprattutto non spegne l'amore. Questa parola così complessa, perché l'amore purifica, fa più luce della fede. Mi ricordo in un contesto dove c'è un teologo, un giovane teologo che parlava e diceva la fede è il fondamento. Io gli dico, ma no, stai sbagliando, dicevo dentro di me. Per me il fondamento del rapporto con Dio è l'amore, è la carità. Vabbè, l'amore purifica, fa più luce della fede, la rende sempre più relazione tra viventi e quindi l'attesa della venuta del Signore è un dono di sapienza per chiunque di noi. Sono andato un po' oltre, molto oltre. Tanto voi siete intelligenti, no? Questo mi interessa, poi...